Sono ancora 18 i manager pubblici il cui stipendio supera il tetto dei 294.000 euro. È un mondo difficile. Anche questi signori, come dice Monti per lo statuto dei lavoratori, non aiutano l'occupazione. E l'Italia va, in vacca, le miniere sono tante lì, restate in Africa, hey ho, andate a lavorare. Po, po, po, po, po, po, po.